as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo sempre qui al Pane e Rose. Io sono Gianfrancesco Ottaviano, delegato della Bonfiglio del Riduttore, operaio metalmeccanico. Il Pane e Rose, la trasmissione degli operai metalmeccanici e non solo. Anche oggi parleremo di contrattazione interna nelle fabbriche del Bolognese. Abbiamo fatto diverse puntate in cui abbiamo parlato dei contratti interni. Abbiamo sempre detto che il Pane e Rose non parla solamente delle sfighe delle fabbriche in crisi, purtroppo ci tocca parlarne spesso, ma vogliamo anche raccontare quando ci sono degli ottimi accordi, soprattutto quando i lavoratori insieme ai loro delegati, con il supporto delle organizzazioni sindacali, riescono ad ottenere dei risultati importanti. Salari, diritti, insomma, e controllo dell'organizzazione del lavoro per noi sono le cose fondamentali. Qui Varver, una storia, un delegato storico di Bologna, Oscar Pizzirani, un compagno, un amico, ci racconterà dell'ultimo contratto interno firmato, ci racconterà delle cose, delle particolarità di quel contratto. Ricordiamo a tutti che la Varver sta passando un periodo di crisi, ecco perché è stato importante intervistare Oscar, per far capire come anche davanti a un'azienda che ha dei problemi di crisi finanziaria, un RSU forte di lavoratori compatti, si riescono a ottenere lo stesso dei buoni risultati. Adesso vi lascio al mio compagno e amico Snupo della GKN, l'ultimo pezzo sulla guerra che ha fatto. Noi, quando abbiamo dei lavoratori che fanno musica, cerchiamo di mandarla sempre, come facciamo sempre spesso con la banda e altri gruppi. Ci ascoltiamo Snupo e poi ci sarà l'intervista con Oscar Pizzirani, delegato della FIOM della Varver. Ci vediamo dopo per le conclusioni. Salve a tutti, siamo qui con Oscar Pizzirani, delegato della Varver, azienda di riduttori del Bolognese. Allora, avete firmato, dal mio punto di vista, un ottimo accordo. Ho letto, insomma, un po' di cose, però vorrei che tu spiegassi ai nostri ascoltatori le cose più importanti di questo bellissimo accordo che avete firmato. Dal mio punto di vista è innovativo e in questi periodi non è che ci sono tanti così. Sì, allora diciamo che c'è da fare una premessa. Noi veniamo da un periodo di forte crisi economica e finanziaria, con l'apice nel 2018. Noi come gruppo, perché oltre a Varvel diciamo che ci sono altre due aziende sindacalizzate, che è Mecnology e Benincasa Meccanica, abbiamo appunto passato un periodo brutto dove di fatto si era bloccata la contrattazione aziendale. Tra il 2021 e il 2022 noi siamo riusciti a chiudere tutti e tre i rinnovi dei contratti aziendali dopo una lunga trattativa, anche in certi momenti difficili, che però comunque, come diceva Ottaviano, ha portato buonissimi risultati. Per quello che riguarda nello specifico Varvel, dove vi è una contrattazione integrativa aziendale antica, cioè è dal 96 che si riusciva sempre a rinnovare il contratto integrativo, noi in questo giro di rinnovo contrattuale abbiamo, dal nostro punto di vista, portato a casa cose importanti come la garanzia sull'incremento salariale, perché abbiamo un premio di risultato che può arrivare sia a 1.550 euro, ma che comunque ci garantisce una cifra certa di 500 euro di acconto anticipo, quindi salario certo. Abbiamo integrato un grande beneficio, benefit che noi avevamo già da tempo sulle visite, permesso per visite mediche, aumentando le causali e allargando anche a figli, genitori anziani, coniugi, conviventi, la possibilità di prendere questi permessi per visita medica. Abbiamo aumentato quelli che sono i diritti dei turnisti, aumentando quella che è l'indennità turno, dando la possibilità ai turnisti, cosa che non era mai stata fatta, di usufruire del ROLA al venerdì, che gli permette nei periodi estivi, diciamo così, di vivere, io la dico così, di vivere, perché fra smettere alle ore 21 e invece smettere alle 19 c'è una bella differenza. Abbiamo aumentato il valore del buono pasto, abbiamo la mensa gratuita all'interno dell'azienda, ma c'è un certo numero di lavoratori che hanno il buono pasto per situazione logistica, cioè nel senso o turnisti o che lavorano in stabilimenti lontani dalla mensa. Abbiamo appunto aumentato questa indennità, abbiamo aumentato anche quelli che sono, diciamo così, i nostri diritti sindacali, portando dentro l'incontro welcome per i neoassunti, cosa molto importante per far capire quello che il sindacato fa all'interno dell'azienda, quello che sono i loro diritti, il contratto nazionale, metasalute, pensione integrativa, insomma tutto quello che riguarda la vita lavorativa. Perciò noi, ripeto, siamo soddisfatti ed è il risultato del referendum che abbiamo fatto lo dimostra. Questo è in sintesi quello che mi sento dire sul rinnovo del contratto integrativo. Insomma, ci sono un sacco di cose innovative. Mi ha colpito molto anche sulla parte salariale, che siete riusciti ad incidere anche, no? Il premio di risultato. Allora, sul premio di risultato intanto c'è da dire una cosa, che noi, mentre prima avevamo due indicatori classici, che era uno legato al fatturato e uno legato alla qualità, abbiamo aumentato il numero di indicatori, che sono diventati in totale 5, di cui 4 sulla qualità e reclamo clienti, dove di fatto è lì veramente che il lavoratore può, con la propria attenzione, col proprio impegno che c'è sempre, però comunque migliorare. La cosa sul discorso dell'acconto anticipo è una roba che, devo dire la verità, era uno dei nostri punti fermi della piattaforma, ma che al giorno d'oggi, anche per quello che è la situazione economica e finanziaria dell'azienda, che non è ancora, diciamo così, fuori totalmente dalla crisi, ma che comunque è un dato, diciamo così, stupefacente anche riuscire. E poi, ecco, l'altra cosa importante, se voglio allargare un po' il discorso anche alle altre due aziende dove ci sono anche dei nuovi delegati, nuove RSU, anche lì abbiamo cercato, visto che la contrattazione integrativa in quelle due aziende è una contrattazione giovane, cioè è il secondo rinnovo di un contratto integrativo in Mecnology Bene in Casa, abbiamo cercato anche lì di portare sempre di più la loro contrattazione verso quella che è la storica Varvel. Quindi, insomma, piena soddisfazione. E questo è una grande cosa, perché sinceramente la Varvel, la RSU della Varvel, io penso che abbia fatto un grande lavoro proprio con le sue consociate, no? Con le aziende che, nella sua filiera, la Varvel si è allargata, ha acquistato ed è queste aziende, e voi siete riusciti a estendere anche a loro una buona parte della contrattazione, e non è da tutti questo, perché spesso si assorbono aziende perché non hanno la stessa contrattazione propria. Qui c'è da dire una cosa: in pratica queste erano due aziende di classico stampo artigianale, cioè dove c'era il vecchio titolare, dove il sindacato non esisteva. Col fatto appunto che sono state acquisite qualche anno fa da Varvel, dove c'è stata la vicinanza con i lavoratori Varvel e con l'organizzazione sindacale, anche lì siamo riusciti in effetti a trasformare un'azienda artigiana in un'azienda industriale, anche nei rapporti e nei diritti dei lavoratori. E la filiera è questo, diciamo che è il classico esempio di filiera. Io sono da 20 anni ormai che faccio il delegato. L'organizzazione ne ha sempre parlato di questa cosa, nel nostro territorio si sta facendo, però insomma qua il risultato è tangibile, concreto. Ecco, questa qua è una cosa importantissima che dovrebbe essere da modello per tantissime aziende nel territorio, ma anche a livello nazionale. Quella del welcome è una delle cose che noi non siamo riusciti in Buonfiglioli a ottenere. Molte delle cose che avete messo in piattaforma sono le cose che anche noi le abbiamo messe, no? Ormai tanto siamo nel mondo dei riduttori, oggi parlavo col delegato dell'STM, ci sono tante cose che alla fine siamo noi, i delegati siamo noi, i funzionari sono sempre quelli, le cose anche in Toyota, ho visto che ci sono molte cose simili. Del welcome è una cosa che noi non siamo riusciti, come alcune altre questioni in Toyota che non siamo riusciti. Sulla precarizzazione, sulla precarietà, come siete messi? Stabilizzazione, riuscite a stabilizzare? Allora, c'è da fare un discorso, anche questo chiaramente era uno dei punti nella nostra piattaforma, sia in Varvel che in Benincasa che in Macnology. C'è da dire la verità su questo punto, è che siamo di fronte a una dirigenza, a un imprenditore dove il discorso della precarietà non l'ha mai sfruttata al 100%, perché noi abbiamo chiaramente i dati semestrali del discorso dei contratti a termine, somministrati e quant'altro. Noi è un punto su cui non abbiamo forzato, perché di fatto la precarietà non esiste, cioè cosa fanno? Prendono questi contratti a termine o con l'agenzia interinale, provano, perché poi parliamo per lo più di produzione, provano queste lavoratrici e questi lavoratori se sono, diciamo così, a loro piacimento, ma che comunque si comportano in maniera normale, fra virgolette, dopo poi vengono assunti, così è successo sempre storicamente, esatto. 12 mesi, sfruttano certo la durata della legge. Non come anche altre aziende che arrivano fino a 30 mesi, insomma. Esatto. L'altro punto che, visto che ho l'occasione che Ottaviano mi ha dato di parlare di Varvel, è un accordo che è al di fuori di quello che è il contratto integrativo, però noi storicamente avevamo un appalto dei logistici in azienda tramite cooperative. Occupava e occupa il reparto logistico circa 32 unità solo in Varvel. Noi nel 2019, dopo tanto tempo, tanto, diciamo così, lottare e scrivere anche nelle nostre piattaforme dove si voleva sempre incrementare i diritti di questi lavoratori che per noi erano uguali a noi, come è giusto logico pensare, noi nel 2019 siamo riusciti a internalizzare questi lavoratori. Questa è una grande cosa. Questo è, devo dire la verità, una delle mie più grandi gioie da delegato, da quando sono delegato in questa azienda, sicuramente. Ed è anche un esempio per tutti quanti noi e per tutti quelli che si trovano in queste situazioni, che purtroppo le aziende sappiamo benissimo che fanno di tutto per non vogliono assolutamente che vengano integrati, anzi si tende a esternalizzare sempre di più per abbassare i salari. Io ti ringrazio Oscar, sei un compagno, sei anche un amico, e ci sentiamo per la prossima. Grazie a te, grazie per l'occasione che mi hai dato e ti ascolto sempre. Grazie mille. Ciao Oscar. We'll be right back. in peace. Yeah, the ladies were too kind. You've been Thunderfrog. Abbiamo ascoltato Oscar Pizzirani, la sua intervista, punti importanti di questo accordo interno, secondo livello di contrattazione, la questione di come hanno esteso la filiera. Pizzirani ha parlato anche della reinternalizzazione della logistica, certamente non sono all'interno di questo contratto interno. In questo contratto interno ci sono cose importanti, lui ci ha spiegato benissimo sull'aspetto salariale, sull'aspetto dei diritti, c'è il welcome, sono i permessi per le famiglie, sono cose che stiamo estendendo in tutte le aziende più importanti del bolognese, nel settore del riduttore dove anch'io lavoro, abbiamo cercato di estendere un modello per tutti, una serie di cose, siamo riusciti a conquistarle quasi tutte le aziende, alcune cose purtroppo a un'azienda sì, un'azienda no, però il concetto è e noi come delegati siamo uniti, cerchiamo di fare piattaforme comuni, cerchiamo di portare avanti alcune questioni che sono fondamentali come la lotta alla precarietà. Abbiamo visto che nelle nostre aziende dove noi lavoriamo 12 mesi massimo di lavoro interinale, cerchiamo di fare degli accordi per la stabilizzazione. Alla Parve sono riusciti a fare una cosa che purtroppo noi non siamo riusciti, il welcome, ossia spiegare ai lavoratori interinali che entrano quali sono i diritti che hanno, come devono comportarsi in fabbrica, i doveri a livello sindacale, chiaramente non lavorativi, insomma sono cose molto molto importanti. Ripeto, la Varve io penso che oggi sia importante, sia un modello per tutto quello che ha fatto per quanto riguarda la sindacalizzazione della filiera. La Varve ha acquisito altre aziende e sono riusciti a estendere la sindacalizzazione in queste aziende. Il fatto della reinternalizzazione della logistica è una cosa che magari avvenisse in tutte le aziende d'Italia, ma è una cosa da provare, dove ci sono le forze per poterlo fare, perché comunque sia noi siamo contro la divisione del lavoro, i padroni vogliono la divisione del lavoro, perché parleremo presto di salario minimo, faremo un'intervista in cui ci sarà una ospite che con me condurrà la trasmissione, intervisteremo i lavoratori sul salario minimo, voglio preannunciarlo. Sarà importante, parleremo anche della manifestazione del 18 giugno, però la affronteremo sul piano politico, ci saranno altre puntate in cui parleremo di queste cose, ma noi tutti, compagni, ci occupiamo di questioni sindacali nei luoghi di lavoro, con i lavoratori cerchiamo di avanzare i diritti, di cambiare la società, siamo chiaramente contro la divisione del lavoro all'interno delle fabbriche. Ecco perché è importante anche il salario minimo, ne parleremo di questo per evitare questa disgregazione. È chiaro che i padroni tendono a appaltare il lavoro per abbassare i salari e abbassare i costi. dovremmo impedire questo, e la Varver è una delle aziende che l'ha fatto. Anche noi siamo riusciti a fare qualcosa di simile in Bonfiglioli, poi qualche volta lo racconteremo, ne abbiamo anche parlato in realtà, intervistando chi si occupa della logistica in Bonfiglioli dei riduttori. Io adesso vi lascio, ci sentiamo alla prossima puntata, in cui parleremo molto probabilmente della manifestazione del 18 giugno che si è svolta, qui noi siamo stati, sul piano politico, perché adesso vedremo che succederà insomma in Italia nel futuro, perché è importante, ci sono delle questioni che si potranno risolvere non solo sul piano sindacale ma anche sul piano politico. Sentiamo la prossima puntata, compagni, ricordo a tutti che sulla pagina del Pane Rose potrete trovare anche il link podcast per ascoltare la trasmissione. Facciamoci un applauso, dai. Aspetta, sì.